un casino, perché è un casino. La zona rossa è un mix di campi a Lorenzo, ci sono delle pantegane morte per strada. Privato di girare nei posti dove io sono. La privatizzazione dell'acqua. Un'occasione e chiediamo la cancellazione. Uno strumento per comunicare. La povertà sta aumentando. Per tutta la via lunga e stretta è che Giomboa. Organizzazione rivoluzionaria anarchica insurrezionalista. Strategia della tensione. La privatizzazione della terra. Dovunque. 8 grandi maiali. Il nostro movimento è forte, ma è fatto anche di tanti pezzi e questa fragilità va tenuta insieme. Tutto questo modello è in crisi, secondo lui, una grave crisi strutturale. La massa di gente che si aspetta in questo posto. When a system is in crisis, anything can happen.